tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat, benvenuti ad una nuova puntata del notiziario anticlericale. Ricordiamo il sito giordanobrunomi.wordpress.com, info@sicilialibertaria.it per richieste sul calendario anticlericale. Ateismo vincerà, ateismo vincerà. Il libero pensiero non ha nazione, anticlericalismo liberazione dal clero. Più case e meno chiese, più case e meno chiese. È appena uscito il nuovo numero del Libero Pensiero, trimestrale culturale direttore Maria Mantello, marzo 2022, nel nome di Giordano Bruno. Dignità, laicità, democrazia. Sono una serie di articoli molto interessanti. Attualità dello sguardo bruniano sulla natura. Bruno aveva ben individuato l'interconnessione di tutti gli elementi della natura, una complessità e interrelazione per lungo tempo ignorata, ma che oggi la prospettiva pluridisciplinare e interdisciplinare della scienza evidenzia, aprendo a una visione del sistema mondo dalle straordinarie implicazioni conoscitive ed etiche. Chiesa e abusi sessuali. A pagina 9 della rivista, un fenomeno sistemico e non più occultabile con cui la Chiesa deve fare i conti. Abbiamo poi altri articoli e interessanti vignette anticlericale, Vaticano e favoritismo di Stato a pagina 15 di Bruno Segre, l'avvocato di Torino. Nelle trattative in Parlamento sugli emendamenti della legge di bilancio, nuovi privilegi clericali. Le basiliche di San Giovanni Laterano, Santa Maria, eccetera, e altri numerosi immobili compresi, non pagheranno le tasse e non pagheranno la tassa rifiuti. Un altro articolo interessante, eresia, a pagina 16, fuori dal labirinto del dogma, eccetera. Pieraccioni, le case chiuse andrebbero riaperte. Dal Corriere della Sera del 13 aprile 2022. Provocatoria proposta ispirata alle case chiuse riammesse in Canton Ticino. Immobili fantasma. La riforma del catasto parta da quelli della Chiesa, da UAR.it. Non sappiamo se partirà o meno la riforma del catasto. Di certo la prima cosa da fare è censire e poi tassare gli immobili della Chiesa. Molto bene. Su una rivista scientifica, Neurologia Italiana, si parla di cervello religioso e neuroteologia. Quindi questa nuova branca dello studio scientifico del cervello potrebbe aprire nuovi interessanti aspetti per noi atei anticlericali, perché potrebbe venire fuori appunto che il fanatismo religioso è una forma aberrante, una vera e propria malattia. Aldo Garzia, le tante vite di un compagno meticcio, dal manifesto del 13 aprile per segnalare i suoi affollati funerali laici. 14 aprile nel cortile della centrale Montemartini si sono tenuti i funerali laici di questo compagno. Senza preti. Fare il celebrante diventa un lavoro, a nozze e funerali laici ci pensiamo noi. Dalla Repubblica del 15 aprile. Parliamo con i familiari per trovare le parole giuste, invece del prete fare gestire il funerale a questi celebranti laici. Il prete potrebbe essere sempre un prete pedofilo, un prete degenerato, un adultero, chi ne ha più ne metta. Dalla Repubblica del 17 aprile una bella vignetta dissacrante anticristiana. Praticamente c'è il Golgota con tre croci. E il terzo, quello che non è né Gesù né Barabba, dice: tu invece com'è che è andata così? Dice Cristo, ma nei tal show ha fatto più share Barabba. Qui una diciamo così, una vignetta dissacrante. Dalla Repubblica del 17 aprile, Dio contro Dio e la guerra delle quattro chiese. Praticamente si inquadra l'invasione russa dell'Ucraina come una specie di bega clericale che ci sarebbe dietro l'invasione russa. C'è anche un conflitto religioso. Le religioni portano sempre a divisioni, guerre, eccetera. Lega. Cosa ha combinato la Lega? Il Salvini adesso si scatena contro l'utero in affitto, dal Corriere della Sera del 13 aprile. Fanatici leghisti, filo crocifissi. Da Rai Storia, ore 12:25 di un giorno di aprile che mi sono dimenticato di segnare, un documentario artistico in cui si condanna la distruzione delle antichità romane col consenso del Papa a Roma. La Chiesa da un lato ha fatto grandi monumenti, ma dall'altro ne ha distrutti altrettanti. Su Focus del 16 aprile, misfatti e fanatismo religioso. Alle ore 12 e 16 aprile, documentario in cui si vedono i cristiani che strisciano biglietti da 50 euro su una pietra che si sa che è lì dal 1800, no? Pensando di avere chissà quali benefici. Poi sono le cosiddette reliquie da contatto, le reliquie della croce. Poi si parla di Oxford, che ha datato un legno della Santa Croce, che è gabellato dai preti appunto come legno della Santa Croce, in realtà è del 1000 d.C. Si è parlato poi anche delle false reliquie della Sacra Spina. Dal secolo XIX.it, un altro scandalo clericale a Savona, diocesi travolta dal scandalo dei preti pedofili, dal suicidio di una dottoressa connessa a questo scandalo. Adesso salta fuori che un prete ha lasciato ben 5 milioni di eredità. Dove li ha presi? Visto che gli stipendi dei preti fanno ridere, stipendi ufficiali. E quindi c'è questa storia dei 5 milioni di euro, già segnalata a suo tempo nel libro del Monsignore del Vaticano, che una ventina di anni fa scrisse il libro Via col vento in Vaticano, dove ai tempi della lira segnalava che tutti i cardinali, quando muoiono, nessuno lascia meno di 2 miliardi di lire dell'epoca. Pedofilia, Portogallo, in 3 mesi 290 denunce di abusi, quindi preti pedofili dappertutto. Su Left si segnala chiesa e pedofilia.left.it, la prima indagine permanente realizzata da un giornale in Italia per far luce su questo fenomeno criminale dei preti pedofili. Forse ve l'avevo già segnalato, ma non mi ricordo, 14 gennaio 2022, uno scandalo di un bambino, un ragazzino, violentato, molestato da questo sacrestano svizzero. Io ho abusato per 10 anni da un sacrestano. La testimonianza di Sergio Piacentin, vittima di abusi sessuali in ambito ecclesiale, afferma di aver subito abusi in questa parrocchia dai 7 anni fino ai 17. Condannato a 12 anni di carcere, sentenza a Timor Est in Asia. L'ex prete americano Richard Dashbach, condannato a 12 anni per abusi su orfane in comunità e pedopornografia. Richard Dashbad, ex missionario americano, condannato a 12 anni di carcere a Timor Est, con l'accusa gravissima di abusi sessuali su minori, pornografia infantile e violenza domestica. I preti, insomma, si fanno conoscere dappertutto. Dalla Repubblica Roma, del stampato il 20 aprile, ma si riferisce al 17 aprile, è accusato di pedofilia, sacerdote arrestato a Velletri, l'accusa. Ha molestato 2 ragazzi all'esterno della parrocchia. Si tratta di padre Carlos Arcos Perez, missionario colombiano di 40 anni, il vescovo. Una grandissima imprudenza. Dalla Repubblica del 15 aprile, Polonia nega l'aborto alle profughe ucraine stuprate dai soldati russi, sempre addosso alle povere donne. 11 ospedali lombardi negano il diritto all'aborto, dal Corriere della Sera del 12 aprile. In 6 strutture milanesi solo chirurgia ma niente pillola, il caso Sondrio. Qui sempre la Chiesa contro le povere donne. Florida, e Kentucky, grande campagna degli integralisti cattolici contro l'aborto. Il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha firmato il disegno di legge, la House Bill 5, che vieta la maggior parte degli aborti dopo le 15 settimane di gravidanza. Poi, dalle mie ricerche su Wikipedia a proposito della guerra russo-ucraina, è sboccato fuori questo signor Stepan Bandera. E parliamo di clerico nazismo e di figlio, e lui era un figlio di preti, sia per parte di padre, perché i greco-uniati cattolici possono sposarsi, che di madre, perché anche la madre discende dalla famiglia di preti cattolici che si possono sposare. E fu assassinato a Monaco di Baviera da un agente del KGB del 1959. Collaborò con i nazisti, insomma, la sua famiglia fu molto perseguitata dai comunisti dopo la sconfitta del nazismo. Disgrazie clericali, anche qui i santi hanno perso un'occasione di farsi vedere. Dalla provincia 150 Pavese, schianto con l'auto, muore Don Marco Porri, parroco di Montebello della Battaglia, 8 aprile 2022, morto sul colpo. Altre disgrazie clericali all'Università di Pavia, dove veniamo a sapere che gran parte dell'università è stata costruita rubando i conventi al clero, ex convento di San Tommaso, ex convento di San Felice, e sono stati riutilizzati per fini culturali universitari. Bene, saluti a tutti e alla prossima puntata. Tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni su Monte Calvario anche tu, che andiamo a inchiodare Gesù.